Thank you. Che dir potrei? Palpiti. Thank you. Eccoci giunti al desiato loco. Thank you. rendermi crudele la mia sventura.

sul vesti. Thank you.